tu dici? CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? C'è qualcuno in ascolto? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Eccetera, hanno i contadini. Chi è? Ciao Nathalie, buona serata. Ciao Giù, buonasera. E allora, adesso ho acceso, sono salito per caricarmi il tablet, che ce l'ho qua, l'alimentatore per la batteria del tablet. Fate cicchiata col microfono e vediamo se c'è qualcuno. Ed eccomi qua. E oggi non è entrato nessuno. E oggi è giornata festiva, dunque se ne saranno andati tutti fuori a passeggiare. Sì, infatti. Sono stato fuori anch'io e quindi è logico che tutti saranno andati a passeggiare. Eh beh, certo. No, io no, non sono uscito per niente. Non saprei cosa fare oggi, dai, anche perché sono solo io e mia moglie a casa oggi, mia figlia è fuori, è continente, è andata a cantare, per cui non lo so, vabbè, comunque siamo bene lo stesso. E quello è poco ma sicuro. No, io sono andato perché dovevo comprare roba da Bricomen che mi serviva per Quino e sono uscito per quello stamattina. Ok. Ehi, anch'io ci devo andare, magari ci vado domani. Da Bricomen devo comprare qualcosina, ad esempio un paio di lampadine di quelle a luce fredda che facciano una bella incandescenza e poi qualche altra cosettina. E io domani devo uscire lo stesso, devo andare a fare una visita dal chirurgo della gamba, capito? Vediamo un po'. Ok. Beh, ti devi dare da fare per cercare di risolvere quel problema, se no non puoi rimanere sempre così, no? E poi quando si tratta di salute non bisogna perdere tempo, bisogna andarci e basta, senza paura, senza niente, perché tanto poi è peggio, se ti trascuri è peggio. Sì, infatti, no, ma io paura non ne ho. E appunto, non c'è nemmeno motivo di avere paura, per cui va bene andare prima possibile, non si può uno trattenere. aiutare a presentarti e prenderlo. Da solo, da te non ci viene il treno, sei tu che devi andare dal treno. E quello è poco ma sicuro. Appunto. Ma ti sento un po' giù di morale, come mai? Sì, perché non mi ricordo dove ho messo gli occhiali, quelli da lontano, tre paia. Non ne ho trovato neanche uno. E mi sono innervosito. Ok. E io ho fatto la visita medica, anche dall'oculista l'ho fatta la settimana scorsa. L'ho fatto. 100 euro. E mi ha fatto leggere tutto quanto. E grazie a Dio ancora riesco a leggere 10 decimi. Però il problema è un altro. Speriamo che quella cura che sto facendo mi stabilizzi la situazione e non regredisca. Sì, infatti. Ma che oculista sei andato giù? Perché anche io dovrò andare a visitarmi perché devo rifarmi gli occhiali. Non li trovo, tre paggi. Dalla dottoressa Coppola, via Armando Diaz, numero 13. È bravissima, intanto è una dottoressa che lavora anche in ospedale, lavora a Ozieri, nell'ospedale di Ozieri, però ha anche l'ambulatorio qui a Sassari e dunque la puoi telefonare e prendere appuntamento, perché in giornata stessa non te lo fa, a meno che non sono delle cose urgentissime, però ti dà appuntamento dopo un paio di giorni, 3-4 giorni, ti dà l'appuntamento nel suo ambulatorio, e cioè magari quando è in riposo in ospedale, allora fa ambulatorio privato, capito? Io ho capito. Sicuramente la telefono e vediamo un po', perché non so, con dici raggio bucci, con tutta la roba naggio bigiado, li ho cercati stamattina e qua non li ho trovati. Tre custodi e con tre paia d'occhiali dentro. Figuriamoci. Vabbè, comunque è così. Via Armando Diaz, numero 13. Dottoressa Coppola, si chiama. Il nome non me lo ricordo. Comunque è bravissima, molto brava, molto, molto conosciuta e soprattutto molto stimata dai pazienti. Non c'è che dire. Va bene, va bene. Adesso lo sai, quando decidi, vedi un po' tu. Mi ha preso 100 euro, mi ha preso a me per la visita. Beh, d'altronde lo sappiamo, noi medici sono così. Sì, andiamo in ora mara e 100 euro. Beh, appunto, certo che sì. D'altronde, cosa vuoi fare? I prezzi sono quelli e è interessante che uno si sappia curare, poi mai si vengano 100 euro come dici tu, poi magari vai da un altro, può essere che uno possa risparmiare 10 euro o addirittura invece puoi spendere anche di più di 10 euro rispetto a quella, che lo sa, perché se sa, essendo privati ognuno di loro fanno il prezzo che più gli piace, ma questo mi sembra un prezzo abbastanza accessibile, non c'è che dire. Sì, infatti. Dovrei andare anche dall'oculista per la visita che devo fare, ma quella la faccio perché mi deve guardare il fondo dell'occhio, ma è sempre normale, perché devo portare il referto alla, come si chiama, alla diabetologa. Ho capito, sì. Se te lo chiede anche la diabetologa, è giusto allora che tu vada prima possibile a fare questa visita, in modo che puoi fare sia l'una che l'altra, appunto. Per cui non ti trascurare, che la vita è soprattutto una cosa importante, importantissima direi. E va bene così, dai. Io avevo avevo anche rinnovato la patente, quando in maggio quando ho rinnovato la patente, lo stesso, per cui non ho avuto problemi, diciamo che non ho avuto problemi, però mi devo sempre tenere sotto osservazione medica, perché arrivata ad una certa età è giusto che sia così. E infatti io ho rinnovato il porto d'arma pure, ho versato tutto in questura e va venuto fine. Hai fatto bene. No, io non ho mai avuto la passione della caccia, no, quello non mi è mai interessato. Mio fratello ce l'ha il fucile, è cacciatore da tantissimi anni e penso che se l'abbia rinnovato anche adesso, non lo so, ma so che lui è sempre in regola con queste cose, anche se a caccia non ci sta più andando, dice è troppo costoso e anche faticoso oltretutto fare il cacciatore, e dunque non ne vale nemmeno la pena, però siccome l'arma ce l'ha e dunque deve avere anche il porto d'armi sempre aggiornato, no? E solo che quello per uso caccia paghi le tasse ogni anno, invece quello che io non pago nulla, capito? Io quello da caccia l'ho versato, ce l'avevo anch'io quello, siccome non ci andavo a caccia ho preso e l'ho versato in questura il porto d'armi, quando mi ho preso quello per uso sportivo, capito? Con quello lì non paghi nulla, non conviene avere quello da caccia se non ci vai, ma cosa ogni abbecilla devi pagare le tasse regionali, capito? Sì, beh certo che sì, è così, lo so, no, lui andava a caccia e basta, niente, ma adesso è anni, parecchi anni che non c'è più andato, però l'arma c'era sempre, perché non è una cosa che te puoi, a meno che uno non se lo vende, il fucile allora è diverso, però so che non se l'ha venduto, almeno credo che non se l'abbia mai venduto, per quanto ne so io, e dunque senz'altro, siccome già è un tipo abbastanza preciso, avendo l'arma senz'altro la licenza aggiornata, capito? Io capito. E il fatto che adesso senza porto d'armi non li puoi neanche detenere, perché ogni 5 anni devi versare tutti i documenti per fare il porto d'armi praticamente, se vuoi detenere le armi. Io me la vivo in dubbi, infatti a volte puoi dimmi tutto, così non ne rinnovo più, perché costa, ai cacciatori gli costa 700-800 euro quando gli scade. E questo non lo so quanto costa, perché io ripeto non mi sono mai interessato di averlo, di fucile a caccia e niente, e anche perché la caccia non mi è mai interessata, per cui no, ma per dire, no, so benissimo che stavo dicendo, è per venderlo, ammesso che uno ce l'ha e se lo vuole vendere, devi andare tramite la questura, no? Tramite la polizia, perché non è che puoi vendere tu un fucile a un pinco pallino qualsiasi, no? Sicuramente ci vuole una documentazione ben precisa e particolare, suppongo che sia così, no? Ci vuole un documento dove tu dichiari che lo cedi a quest'altra persona, bisogna andare insieme in questura, no? Così lui se lo denuncia a nome suo e a te te lo cancellano, ti cancellano la denuncia. Appunto, perché non è una cosa così semplice, non sembra l'America, è ovvio, che vai lì, anche nelle bancarelle ti compri l'arma, come ti basi in America, è una vergogna, per quello che tutti i giorni ne ammazzano e ne fanno strage addirittura tutti i giorni in America, anche i bambini della scuola elementare vanno, si comprano una pistola e poi vanno in classe e fanno la strage, ma dimmi tu se questi sono sistemi di una nazione democratica, ma non è possibile, queste sono cose da proibire. E lo so, purtroppo c'è la Costituzione degli Stati Uniti di mezzo, che che dice che l'americano deve essere armato per forza, capito? Non è una concessione che ti dà lo Stato, è un diritto in America. Invece qua no, è una concessione che ti dà lo Stato qua, non è un diritto. Quindi se vogliono te lo negano il porto d'armi, capito? Addirittura, figurati un po'. Invece in America no, è un diritto ma la sorte, è per quello. E nessuno si permette di toglierlo questo diritto, perché sennò alle elezioni non lo vota più nessuno. Io guardo sempre, insomma, di tanto in tanto guardo canale 26 alla televisione, no? Che c'è, è una specie di banco dei pigni. La gente arriva lì con le armi e li vende così al negoziante, trattano, devono negoziare il prezzo, devono negoziare, quando si mettono d'accordo, se no il commerciante ce lo compra, magari fanno anche i documenti, questo sì, però poi se li rivende il commerciante, ma per dirti no, lì usano le armi come la forchetta, quando si siedono a tavola a mangiare, alla stessa maniera, hanno cercato di farlo diventare tipo come qui in Italia, ma non ci riescono, capito? Sì, aspetti magari una settimana, ma poi se la danno, non c'è nulla da fare, hai capito? Non vanno denunciate lì le armi, quindi è un macello, da uno basso all'altro, e non è giusto. Infatti non è giusto, no. Vale per la patente di guida, io so che lì vai lì, ti presenti e in 448 ti danno la patente di guida. Questo me l'aveva raccontato un sardo che io ho così per caso una volta tanti anni fa avevo incontrato, e mi ha detto che lui viveva in America, viveva ed era così. Dice no, io vado in ufficio, mi presento e con tutta la documentazione necessaria e mi danno la patente di guida. Ma perché non, quando mai uno non deve essere preparato con tanto di scuola, istruzione, di guida e tutto? No, lì così, alla carlona. Comunque ogni nazione ha i suoi metodi, i suoi sistemi. Se lo fanno sarà anche giusto, non lo so. Ma non penso che senza esame te la diano la patente, no? Mi baleceranno. Da noi c'è da studiare anche parecchio per avere la patente. Appunto, studiare, anche più possibile bisogna studiare. Soprattutto al giorno d'oggi, con tutto quello che succede, con tutti quanti questi spericolati di giovani che ci sono in giro, e non solo giovani, anche persone di una certa età. Bisognerebbe essere sempre più come si dice? Mi sfugge l'aggettivo, più severi nel conseguire la patente di guida, perché non è possibile oggi, con tutto il traffico così che c'è, dare una. Perché la patente di guida è un'arma anche pericolosa, oltre che molto comoda, però tutto sommato si può considerare un'arma anche pericolosa, si può considerare, perché quando uno si siede in macchina hai sotto il sedere hai un'arma, e io la penso così. Ed è così, infatti. Non hai visto quello lì, col pullman che si è parato un di vera ferrovia e ci sono stati un sacco di morti, capito? Magari gli è venuto un malore a quell'autista lì, perché quello era un esperto, uno che porta il pullman non è un pilla qualunque, no? Non gli danno il pullman in mano così, no? E chi lo sa com'è andata la questione, anch'io ho pensato a un malore, non credo, però c'è stato qualcuno che era dietro di lui, penso che sia un altro pullman stesso, che era una specie di carovana che stava andando non so dove, e che da questo pullman che è appunto caduto giù, vedeva una scia di fumo da dietro, che sia successo qualche incidente meccanico e magari questo autista si è appoggiato al guardarai con la speranza di bloccare il pullman, e invece il guardarai non ha tenuto e allora indagini, ma non so se riescono a risalire al motivo valente per come è successo l'incidente. La verità, io ho sempre qualche dubbio quando fanno queste indagini, alle volte sono indagini fatte così No, che gli faranno l'autopsia a quello lì e risalgono a tutto. Più ci sono le scatole nere del pullman che dicono se è successo qualcosa di meccanico, hai capito? Ma lì risalgono, che poi di fianco, arrombendosi, non i rampi riguardo il rail, riguardo il rail, i rampi solo si rubigli di punta, secondo me. Essendo un mezzo pesante, solo così ne lo può buttare, perché affiancandosi non ne lo butti il guardrail così. Sì, infatti la scatola nera l'hanno recuperata, però non sono riusciti a risalire a niente. Dalla scatola nera evidentemente non c'è stato niente di particolare. Il problema sembra che questo guardrail si era interrotto perché c'era un ingresso per il passaggio adiacente pedonale e dunque ha buttato giù prima il guardrail, poi è sceso nella pista pedonale e ha buttato giù anche la protezione della pista. Cosa vuoi dire? Perché avendo avuto l'interruzione il guardrail ha preso un altro di punta e l'ha diverso così. Perlomeno questo è quello che ho potuto capire io dalla televisione, poi cosa sia successo realmente. Io dico che è stato un malore dell'autista, può succedere. Sì, infatti, anche a un amico mio è successo, gli è venuto un malore ed è morto in una strada dritta, a chi si è cuta al muro di Vesuvio. E quello la macchina la sapeva portare, però evidentemente ha avuto un malore quello lì, ed è morto così. Infatti, secondo me è un malore dell'autista, già gli fanno l'autopsia comunque e se ne accorgono. Sabisani burusi embriagu, seghistu, seghindu, tutto sabisani si rifatti l'autopsia. Sì, dall'autopsia sì, di quello è vero, risalgono a tutto, anche ad un eventuale malore o a qualche eventuale diciamo qualcosa che lui ha assunto e non poteva prendere. Come dici tu, poteva anche essere bevuto, poteva essere anche drogato, che lo sa. Tutto, ma però ho sentito sempre, stando alle notizie che hanno trasmesso, che era un uomo molto ma molto pignolo, uno dei più bravi autisti di quella compagnia, e che era molto molto pignolo al riguardo della macchina, per cui era uno preciso, proprio preciso nello senso della parola. Infatti ho pensato, le cose sono due secondo me. Ho avuto un colpo di sonno perché era stanco, chissà quante ore di lavoro aveva già fatto, oppure ha avuto un malore. Io ho preso fra quelli due, secondo me il motivo è solo fra quelli due. E secondo me ha avuto il malore, da perché è così. A bere non penso, perché quella gente lo sa che non deve bere nulla, capito? Niente bro, più me è zero, perché se ti trovano poco poco hai bisogno di travagliare, capito? E appunto, non credo che sia così sprovveduto un elemento del genere. Vabbè, va via, 40 anni, è giovane, tutto quello che vuoi, ma tanto più che penso che era anche di mattina, non molto tardi nemmeno, che è successo l'incidente. Io ho pensato, ho fatto la notte, quello, ho fatto parecchie ore di viaggio e si è addormentato alla guida, o perlomeno ha avuto un malore. Uno dei due motivi possono essere. Sono cose molto pericolose. Uno quando fa un autista di linea così è una responsabilità grande, grande, grande, non indifferente. Io mi ricordo, l'ha fatto mio fratello anche per tanti anni, mio fratello ha guidato il tram a Sassari per tantissimi anni, ha guidato. Poi alla fine, siccome faceva di 3 mesi in 3 mesi, faceva 3 mesi di pompiere e 3 mesi l'autista di tram, faceva, no? L'ha fatto per almeno anni, circa una quindicina d'anni. Alternava 3 mesi di pompiere e 3 mesi di autista. Beh, ti dirò che non ero riuscito mai a entrare fisso né pompiere né autista, fisso, né in un posto né nell'altro. Però 15 anni ce li ha passati lì, naturalmente sempre assicurato, sia da una parte che dall'altra, è ovvio, no? Sì, lo so. Una saggezza non c'è riuscita, Stefano lo stesso, Principe Azzurro, non lo portava il tram. A me mi hanno chiamato pure lì alla cosa, alla FIA, dove mi hanno chiamato, però io stavo già lavorando e ho rifiutato quando mi hanno chiamato, perché non mi conveniva tra l'altro, perché era solo 3 mesi, io lavoravo per 6 mesi dove stavo lavorando, capito? Sì, ma lui è proprio fisso, cioè finiva i 3 mesi da pompiere e passava automaticamente al tram, finiva i 3 mesi del tram e passava di nuovo automaticamente a pompiere. Infatti pensa, ti ricordi quell'incendio che c'era stato 80 anni fa a Tempio, che erano morti 9 persone, mi sembra che erano, e c'era anche lui spegnendo quell'incendio quella volta. L'unica cosa che poi ho ottenuto, che è rimasto sempre all'interno dell'ATP, ma quello dopo anni, che avevo l'assunto fisso, questa volta fisso, nel parcheggio di Viale, di fronte al coso, come si chiama? All'ospedale, Viale Mille, Viale Mille quello, sì, Viale Mille.